God Power. That sounds worth listening. Sono le ore 10 e 12 di lunedì 16 maggio 2005. Lunedì scorso 1.405.000 spettatori hanno visto sulla 7 il processo di Biscardi. Se siete uno di loro avete sbagliato podcast. Pod Power è una guida settimanale su come usare internet per ascoltare qualcosa di più interessante di quello che propongono i media tradizionali. Per esempio, in materia di cinema. Ammettiamolo, sono molte, forse troppe, le volte in cui ci ritroviamo in una sala cinematografica a meditare sul perché abbiamo scelto proprio quel film e di norma non abbiamo una risposta a questa domanda. Il problema è che il più delle volte non era colpa nostra. Molto spesso fin dall'inizio eravamo scettici su quella pellicola, ma magari per quieto vivere abbiamo finito per conformarci alla volontà della maggioranza. Sì, ma la maggioranza perché ha voluto vedere proprio quel film? Per una serie di motivi. Perché la sala era vicina, perché era di fronte alla pizzeria, perché l'orario era comodo, oppure perché ne parlano bene i giornali. Beh, è evidente che qualcuno esercita una forte influenza, magari non su di noi, ma sulla maggioranza, quando si tratta del film da andare a vedere. Qualcuno che monopolizza le sale con la distribuzione più capillare, qualcuno che orienta, per così dire, le recensioni, qualcuno che magari possiede gli stessi mezzi di comunicazione che parlano di cinema. Voglio essere franco, non credo che internet potrà mai fare in modo che il film migliore venga programmato davanti alla nostra pizzeria preferita, però magari potrà dare qualche salutare scossone a un sistema molto, forse troppo consolidato. Ne parliamo con Alberto Farina, un personaggio obiettivamente difficile da presentare per l'incredibile quantità di cose che ha già fatto sul cinema e per il cinema. Di sicuro da ex direttore di Coming Soon Television, un canale satellitare interamente consacrato al grande schermo, Alberto è la persona adatta a cui fare qualche domanda sul complesso rapporto tra il cinema e i mezzi di informazione. Solo una precisazione, l'intervista che stiamo per ascoltare dura, nella versione originale, oltre mezz'ora. E per questo motivo, nonostante qualche taglio, sono stato costretto a pubblicarla in due parti, la seconda delle quali andrà in linea con il prossimo numero di Pod Power. La registrazione dell'intervista, inoltre, è stata realizzata in un ambiente non ideale e risulta quindi disturbata da qualche rumore di fondo. Me ne scuso in anticipo. Alberto, grazie di essere con noi. Grazie per il tuo tempo. Come avrai forse sentito nella scorsa puntata di Pod Power, abbiamo intervistato Marianne Trudell, che è una giovane pianista che cerca di sfuggire al controllo delle major gestendo in proprio tutti gli elementi della propria filiera, dalla produzione alla distribuzione alla promozione della sua musica. E la prima cosa che mi viene in mente di chiederti è se un modello del genere sia applicabile anche in ambito cinematografico. È immaginabile uno scenario in cui un regista decide di produrre un film, distribuirlo magari on demand su internet e promuoverlo utilizzando canali alternativi come per esempio il buzz marketing? Sì e no, direi. Credo che bisogna un po' capire qual è l'obiettivo di questo regista. Io credo che ci sono esperienze passate di registi che hanno fatto film per internet. Ora, proprio mentre vi parlo, mi viene in mente Stefano Reali, un regista italiano per lo più attivo nelle fiction. L'unico suo film per il cinema che ho visto mi fa pensare che sia un bene questo, fra l'altro. Qualche anno fa aveva fatto un film che era uscito a puntate sul sito, credo, di Cinecittà, ed era fatto in modo, credo fosse compresso in DVX, prima che i DVX lo conoscessero tutti, perché cominciavano a scaricarsi tutto quanto con il mulo, eccetera, eccetera, e ogni settimana ne veniva messa online un segmento, tipo 10 minuti, ed era codificato in modo che quando fosse stato scaricato il decimo episodio, uno avrebbe potuto finalmente vedersi il film nella sua interezza, mentre prima credo che questo non sarebbe stato possibile. Sì, certo. Ed era un film girato a bassissimo costo, usando appunto collaboratori che lo aveva conosciuto nella sua esperienza professionale, girato tutto credo in mini DV, quindi veramente anche come pellicola a costo zero, però veniva distribuito così come dimostrazione di tecnologia. Sì, della modalità di distribuzione, certo. Il problema, allora, sicuramente ci sono autori che distribuiscono i loro prodotti online. Un altro esempio che mi viene in mente, e ti troverò poi il link, così magari lo puoi mettere nella pagina del podcast, perché ora non mi sovviene, è un amico che vive a Mestre, che è un video artista, fa delle video, lui le chiama Videorobe, che ha fatto un anno e mezzo fa, mi sembra 2 anni fa, una serie televisiva in 8 episodi, completamente autoprodotta, che si chiama Vita da Eroi, anche abbastanza interessante dal punto di vista registico, perché ha tutto un suo gioco di riquadrature, delle inquadrature con effetti sonori, analogamente a quello che successivamente a lui ha fatto Ang Lee per il film orrendo Hulk. Sì, sì. Questa serie non è che sia granché, purtroppo non è scritta bene, ma è registicamente interessante, e lui credo che abbia messo in condivisione sul suo sito, ecco, credo che l'indirizzo sia www.vitadaeroi.tk, se è ancora valido, e lì ti potevi scaricare, credo, i trailer, forse anche alcuni episodi, l'obiettivo poi essendo venderli in video CD. Non credo che sia diventato ricco con questo sistema. No, anche perché il formato del video CD è ormai ampiamente superato. E in Italia non ha mai poi preso piede, insomma, ci hanno un po' provato, ma senza troppa convinzione. Mentre invece per dire Hong Kong trovi i video CD di qualsiasi cosa, no? In Italia non ha mai preso. Credo che il sistema di distribuzione così via internet sia utile soprattutto a chi vuole farsi conoscere. Cioè, certo. Ci sono tante storie più o meno reali, più o meno mitizzate, di giovani registi che hanno messo il loro corto in condivisione magari su appunto i Mule o i vari circuiti del peer-to-peer, oppure che si sono organizzati per metterlo online sul sito e poi diffondevano sui newsgroup, i forum, via ICQ, in qualsiasi modo il link per poterselo scaricare. Però sempre senza pensare di ottenerne un rientro economico, cioè l'idea alla fine è che se ne parli. Io credo che il 90% della gente che usa la DSL per scaricare cose scarichi illegalmente film recenti. Sì, ovviamente. Purtroppo tutti quanti dicono: mio cugino mi ha appena scaricato questa cosa, ovviamente il cugino è... Sì, poi ci sono quelli di secondo livello che semplicemente si riforniscono con dei CD da coloro i quali si assumono i rischi. Però detto questo, esistono tra quelli che bazzicano il circuito del peer-to-peer, io non mio cugino, io per un paio di mesi, un breve periodo che ho avuto la connessione fasso e ve l'ho fatto, esistono insomma le dritte sulla cosa carina che magari non trovi sul circuito commerciale, che quindi puoi trovare soltanto in questo circuito, che è illegale solo quando scarica cose che sono potenza copia. Certo, naturalmente. Allora, con queste indicazioni mi è capitato di scaricare piccole chicche, anche cazzatine, cose divertenti che potevano avere un senso. Beh, un mito da anni, e devo dire che poi non è all'altezza proprio di questo mito, è il cortometraggio Bambi contro Godzilla. Un'animazione semplicissima in cui c'è un cerbiattino con una musichetta bucolica, e sostanzialmente Bambi che sta brucando, passano i titoli, e allora regia di Pinco Pallino, prodotto da lo stesso Pinco Pallino, montaggio Pinco Pallino, effetti speciali Pinco Pallino, cioè alla fine il gioco è questo, e alla fine del film il piedone di Godzilla schiaccia Bambi, che si è messo. Però è una cosina che sicuramente non avrebbe potuto essere distribuita commercialmente, però su internet ha acquisito un piccolo status di cult, per cui c'è chi se la scambia. Beh, forse ricorderai che anche i primissimi e costosissimi video della Pixar avevano una circolazione su internet. Oh, assolutamente, anzi, una cosa che si può trovare facilmente su internet, per esempio, c'è quel famoso cartone animato del pupazzo di neve, sì, chiuso nella bolla di vetro, sì, e che si innamora della sirena, che su internet si trova nella sua versione reale, perché poi il film è uscito abbinato con non so se Nemo o che cosa, solo in versione purgata, perché la sirena aveva delle puppe che nemmeno ha già... Sì. Io l'ho visto su Imagina, cioè, ecco, non so se presenta... Sì, la vecchia versione, esatto. Ecco, la vecchia versione si scarica su internet, la nuova versione c'è su tutti i DVD, lei è piallata. Invece la versione originale c'ha veramente delle robe che sembra delle palle da bordo. Perché evidentemente poi Disney ha cominciato a mettere soldi dentro la Pixar. Quindi ha detto... e ha reso tutto molto più rooseveltiano dopo un po'. Per cui, per rispondere e tornare alla domanda, sicuramente è un modo di farsi conoscere, tra l'altro credo neanche senza poterlo tanto pilotare, cioè quando uno parla di viral marketing, dice vabbè sì, devi studiare una strategia buona e poi circoli. Non so quanto la frantumazione dei circuiti permetta di avere effettivamente una strategia. Secondo me, se fai una cosa che è fatta bene, a un certo punto qualcuno ne parla, se la cosa cresce, magari un anno, due anni, tre anni dopo che l'hai fatta, diventa un mito. Visto che siamo in periodo di uscita di Guerre Stellari, un corto molto carino che si trova facilmente è George Lucas in Love, che è il saggio di laurea di non so quale studente americano, ed è la storia di George Lucas giovane che scrive Star Wars, il primo episodio, unico decente, e si vede che tutte le cose che scrive le trae dalla sua vita, ed è un corto per i fanatici di Guerre Stellari molto divertente. Si trova solo lì, perché non esiste, forse c'è un qualche DVD americano su cui lo si può comprare, ma altrimenti non si trova. È un biglietto da visita alla fine, io credo, tanto, almeno allo stato attuale delle cose. Ecco, invece nel caso di questi portali, diciamo, condivisi tra molti giovani registi indipendenti che decidono di riunire in un unico luogo tutti i loro, per esempio, i loro corti, no? Cominciano a esistere alcuni portali del corto anche in lingua italiana, me ne puoi citare qualcuno? Sì, beh, ti cito subito uno con cui ho collaborato e sporadicamente collaboro, insomma sono degli amici, che è shortvillage.com, credo che funzioni anche facendo shortvillage.it e non so quali altri domini possibili, che esiste da abbastanza tempo ed è in effetti diventato negli anni il punto di riferimento per gli autori italiani di corti e per chi invece vuole i corti vederli. Il problema è sempre quello dello sfruttamento economico, nel senso che Short Village fornisce sicuramente un'ottima vetrina per chi ha fatto un cortometraggio e lo vuole mettere in circolazione. Ci sono alcuni, pochi, che hanno la fortuna di avere il film, stavo per dire, acquistato da Corto 5, in realtà Corto 5 credo che non ti dia neanche una lira, perché il pagamento è l'onore di essere stato scelto da Corto 5. Allora, gratis per gratis, può essere sensato metterli su un sito dove uno se li può cliccare e vedere on demand, come appunto anche un podcast, no? Uno si scarica quello che gli interessa, vede quello che gli interessa, quando gli interessa, senza dover essere vincolato a orari di messa in onda. Ecco, tra l'altro ci sono degli sviluppi tecnologici interessanti, nel senso che il podcast in realtà è una tecnologia che si può applicare tranquillamente anche al video, quindi io mi immagino un futuro neanche troppo lontano in cui il regista avrà il suo canale dove man mano che pubblicherà il primo corto, poi magari il mediometraggio, poi magari il primo lungometraggio indipendente, potrebbe anche essere disponibile in podcast. In prospettiva sì, forse neanche in una prospettiva tanto remota, cioè io apprendo, adesso mi occupo di televisione in maniera ormai più marginale, ma comunque ho amici che continuano a lavorarci, e ormai molto spesso ci si deve occupare di creare anche i contenuti per la visione, che ne so, sui telefonini. Allora, se un cortometraggio o un blog visivo che potrebbe essere avvicinabile a un cortometraggio, insomma, poi soprattutto se articolato in maniera un po' creativamente più interessante, potrebbe essere il classico tipo di contenuto che uno si scarica e poi si vede con calma sul telefonino, mentre magari sta in metropolitana e quindi il telefonino non li prende. La prospettiva c'è. Welcome to Real Reviews, Films Worth Watching. I'm Michael Gohagan. Thanks for joining us again. As always, we're easy to reach on the web at realreviewsradio.com. Well, today we're going to take a look back at the 70s, or at least a film that came out in the 70s, which frankly isn't all that uncommon here on Real Reviews, but there is a film that was remade last year. Actually, it was released last year, and it's just about to come out on DVD in the beginning of May. And I figured if it's worthy of a remake, let's go back and take a look at the original. So today we're going to cover the 1976 John Carpenter film, Assault on Precinct 13. Now, John Carpenter... Sicuramente avrai potuto forse sentire uno di questi podcast americani che si chiama Real Reviews, che è forse uno dei più popolari in assoluto, in cima alle classifiche di Podcast Alley, e che propone recensioni cinematografiche molto accurate e soprattutto molto tempestive, tanto da risultare molto ascoltato proprio tra gli addetti ai lavori. Ora, pensi che anche in Italia il podcast possa proporsi come mezzo di comunicazione verticale in ambito cinematografico agli stessi livelli, oppure che sia destinato a rimanere un dominio riservato di una nicchia orizzontale, come sono tipicamente gli utenti ad elevata, diciamo, alfabetizzazione informatica? Ma dunque, allora, io non ho mai sentito effettivamente quel podcast. Ah, ok. Non posseggo un lettore MP3 e quindi non ho ascoltato soltanto il tuo podcast prima di questa intervista. So più o meno che cosa sono, comincio forse solo adesso a rendermi conto delle potenzialità. Pur essendo io su questo tipo di cose sostanzialmente un sostenitore della comunicazione testuale, più che altro perché si può fare una ricerca, ecco. Sì. Cioè, magari se anche noi ora dicessimo delle cose fondamentali. No, mi permetto di correggerti, cominciano a esserci anche motori di ricerca che fanno voice recognition tra i podcast. Ecco, beh, questo potrebbe essere interessante quando tutti avranno un Echelon portata lì. Allora, più o meno. Allora, mi farà valere la pena di così. Per cui faccio un po' fatica a vedere nell'immediato futuro l'affermarsi di questa forma di comunicazione. Però va detto che le cose cambiano talmente in fretta. E con questo si chiude il numero 5 di PodPower. Tutte le puntate di PodPower sono realizzate sotto licenza Creative Commons e sono consultabili sul sito podpower.splinder.com, dove troverete anche i link a tutti i media menzionati. La sigla di PodPower è Dig dei Noise Units. In sottofondo avete anche ascoltato The Medallion dei Seductive Tales. Per i vostri commenti e suggerimenti sempre benvenuti potete scrivere ad antoniocontent@yahoo.it. Buoni ascolti e alla prossima!